avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bye. Avete mai fatto attenzione allo sguardo di un portiere d'albergo quando consegnate il documento alla reception? Vi guarda, ma i suoi occhi sembrano andare altrove. È come se voi foste trasparenti, ma allo stesso tempo vi squadra dalla punta dei capelli alla punta dei piedi. Osserva il vostro bagaglio, come siete vestiti, il vostro sguardo. Cerca di intuire se voi avrete delle richieste particolari, accessori, fumatori o non fumatori. Mi dia una bella stanza, la voglio silenziosa, vorrei un letto comodo. E già lì alza gli occhi e ti guarda. Che vuol dire vuol letto comodo? Ma lei è solo? Sì, sono solo, ma vorrei un letto comodo. E subito si aprono degli universi dietro. Il portiere d'albergo è una figura molto delicata, anche se un po' retro, appartiene un po' ad altri tempi. Oggi la privatezza di un essere umano non è affidata a un altro essere umano. È affidata a dei congegni elettronici, a degli strumenti inseriti nella sua stessa persona. Cosa mai potrà serbare di segreto di noi un portiere d'albergo? Quando ogni nostro passaggio è registrato, è segnato, è indelebilmente raccolto in un archivio, in una memoria elettronica e ritornerà sempre comunque alla superficie. Voi direte, ma perché sei malato? Vedi l'albergo come un luogo di incontri clandestini solamente? L'albergo è un luogo di privatezza, l'albergo è un luogo in cui noi usciamo dalle nostre consuetudini. L'albergo è una porta girevole, aperta a un'infinità di altre vicende, altre storie. L'albergo è pieno di imprevisti anche per i frequentatori più assidui di alberghi. Io per alcuni anni della mia vita mi svegliavo la mattina e non ricordavo in quale città fossi, perché facevo l'inviato, quindi cambiavo continuamente posto. E ricordo c'era una sorta di frenesia in questa vita randagia, in questa esistenza in continuo nomadismo. Gli alberghi in realtà hanno dei luoghi comuni, hanno delle circostanze molto simili. Alcune grandi catene di alberghi fa sì che in qualunque parte del mondo tu vada, ti senta sempre nello stesso posto. Hai lo stesso arredamento, hai lo stesso tipo di lenzuola, lo stesso cioccolatino sopra il cuscino, gli stessi oggettini e gadget di piccola toilette nel bagno. Hai le stesse persone con gli stessi sorrisi, la stessa colazione la mattina, sembra di stare sempre nello stesso posto, quindi è tranquillizzante. Cambia soltanto la figura del portiere d'albergo, è sempre un'altra persona, anche se hanno le stesse vise, anche se hanno avuto lo stesso corso. Insomma, il portiere d'albergo è una figura probabilmente che nell'accezione in cui la sto descrivendo io non appartiene più alla nostra contemporaneità, o forse sì, o forse no. L'importante questa mattina vorrei dedicare una puntata ai portieri d'albergo, a quelli che lo hanno fatto per tanti anni, a quelli che lo stanno facendo adesso, a quelli che ogni giorno incontrano i loro sguardi indagatori e allo stesso tempo discretissimi. 800240024, sia che voi siate cliente, sia voi che siate portiere d'albergo, questa è la vostra trasmissione. Sì, ma a quest'ora di notte dove la rimedio non ho disponibile io. Ma scusi, non le chiamano lucciole? E allora le lucciole andranno in giro di notte, no? Se no facevano le vespe, mi scusi. Sì, ma adesso sono le 3 di notte. E allora lei che portiere di notte è? Su, faccia il bravo, tiri fuori l'agenda delle coperte. Dai, ce l'hanno tutti i portieri, anche Jugoslavia, non ce l'ha lei? Vediamo se le torna la memoria. Mi ricordo tutto. Ha visto? Mi ricordo che l'agendina l'ho persa. Oh, madonna. Sì, ma possiamo rimediare, Ecco qua. Ma Bergamo, le mettono sulle pagine gialle? Ma no, lo stradario, no? Ah. Ecco qua. Ecco, vede? Sì. Via della Libertà. Qui vedrà dei fuochi, eh? Quello è il paradiso dei camionisti. Partiamo subito dal punto più basso, così ci togliamo il pensiero, ci togliamo questo dente. L'immagine bieca, sciatta, da viaggiatore e venditore di aspirapolveri che si ferma nei motel lungo l'autostrada. Il portiere d'albergo come procacciatore di coperte vive. Io i primi anni cominciai a girare con i tecnici e gli operatori della RAI capì subito nella mia ingenuità di ragazzo provinciale quale sconcia e lubrica accezione fosse dietro il termine la coperta viva. Si davano di gomito, dicevano: ma tu la chiedi la coperta viva? Eravamo tutti uomini, giravamo sempre solo maschi, giravamo sempre in tristerrimi alberghetti o motel lungo l'autostrada, attraversavamo l'Italia per lungo per largo, io facevo il mio mestiere e lo facevano il loro. Loro erano tutti molto più anziani di me, e ero un giovincello, loro erano già bravissimi e specializzati nel gioco delle false, doppie, triple, caricate, gonfiate, ricevute, ma sapevano anche tutto sulle coperte vive. E ridevano, alludevano su questa coperta viva. Io non capivo cosa fosse la coperta viva, poi lo capì, mi fu detto. Beh, in quel caso devo dire che è il punto zero della considerazione del portiere d'albergo. È un procacciatore di compagnie fugaci. Ora, visto che all'onore delle cronache ci sono ben illustri procacciatori e ancora più illustri clienti di questa procacciamento o procacciazione, non mi sembra a questo momento che valga la pena di soffermarsi più di tanto su queste attività. E comunque, visto che noi siamo classificatori dei fenomeni che andiamo a toccare, esiste anche questo. Già mi scrive qualche ascoltatore su Facebook, mi scrive Maria Cristina, dice: il mio uomo è stato portiere d'albergo per 20 anni prima di diventare non ho mai capito cosa. Non ci sono più portieri di una volta, che erano i più confidenti del cliente e disposti a trovare loro di tutto. È cambiata la figura, come dicevo esattamente io. Il portiere d'albergo non è più quello che era una volta, è cambiato. Ma cosa è diventato oggi? Cerchiamo di capirlo. Fu quel primo giorno a farmi capire che fare il portiere d'albergo era davvero ciò che volevo. Al principio speravo non si presentasse nessuno, e invece arrivò il primo cliente e sudai freddo, poi un altro e un altro ancora. E ci presi gusto, e più cose mi chiedevano, meglio era. Più ero sotto pressione, meglio reagivo. Iniziai un gioco con me stesso. Quando vedevo avvicinarsi un cliente, lo studiavo, provavo a indovinare cosa mi avrebbe chiesto. E poi ero bravo ad adattare il mio stile di conversazione in base all'interlocutore. Se ti arriva uno fine, educato e colto, parli poco e ascolti molto. In generale apprezzavano i miei modi diretti e semplici. A fare giustizia sulla scellerata visione del portiere d'albergo come unico depositario dei desideri di fugaci notturne trasgressioni dei suoi clienti, è uscito proprio in questi giorni un libro dedicato ai portieri d'albergo. Il libro è Nessun problema, i segreti dei portieri dei grandi alberghi, e l'autore è Nicolò Di Rienzo. Nicolò Di Rienzo, buongiorno. Buongiorno. Quello che edizioni ADD, devo dire. Quello che mi sembra che sia il suo compito è di ridare una degna ricollocazione a questa figura che è stata importantissima soprattutto negli anni della rinascita fino ai giorni d'oggi, in cui gli italiani hanno allargato la loro capacità di girare in alberghi. Non era soltanto riservato a persone che avevano un potere d'acquisto elevato, ma gli italiani hanno cominciato a conoscere gli alberghi. Ecco, come le è venuto in mente di cominciare a intervistare i portieri d'albergo? Quasi il desiderio di mantenere viva un ricordo di una figura che antropologicamente non esiste più, o qualcosa di diverso? Ma è stata la classica lampadina che si è accesa, perché in realtà ho fatto un percorso abbastanza comune nell'avvicinarmi a questa professione, nel studiarla, voglio dire, perché mi ricordo che stavo parlando per lavoro con un portiere d'albergo a Milano. Questa persona a un certo punto mi racconta un piccolo aneddoto, io sorrido, lo guardo e gli faccio: lei ha tante altre cose di questo genere che potrebbe raccontarmi? Lui mi ha guardato come per dire: figliolo, se tu solo sapessi quante ne ho viste. E allora mi ha presa questa curiosità, e appunto, dicendo il percorso comune a molti, la prima cosa a muovermi è stata l'idea del gossip. Poi nell'intervistare questi personaggi, devo dire in generale molto interessanti e alcuni favolosi, sono rimasto molto colpito anche dalla figura proprio del portiere, e penso che nel libro poi alla fine si riesca a vedere con una postfazione piuttosto corposa cosa in realtà questa persona sia. La sua analisi all'inizio della trasmissione, o almeno da quando l'ho sentita io, è molto interessante ed è molto veritiera. Mi piacerebbe fare una osservazione. Quando lei dice che il portiere all'ingresso, quando ha davanti il cliente, lo sta squadrando, sta cercando di capire le sue esigenze. In realtà questo qui è questa cosa succede addirittura prima, quando è già alla porta. Di solito i banchi, almeno nei vecchi alberghi, erano posizionati di fronte all'ingresso e quindi c'era l'intenzione da subito di intuire quali fossero le problematiche del cliente. E devo dire che molte di queste persone che ho intervistato lasciano capire che hanno qualcosina in più per capirlo, hanno una sorta di simbiosi immediata col cliente. Diciamo che è difficile mentire o improvvisare o millantare di essere qualcosa di diverso di fronte al portiere d'albergo quando entra, quando quello che ti accoglie. In particolare, io mi ricordo sulla discrezione dei portieri d'albergo. Il pressing che feci per una serata intera dal portiere di quell'hotel torinese di fronte alla stazione in cui si è suicidato Pavese, per cercare di capire, fammi vedere la stanza in cui si era suicidato, avevo questa curiosità. Per avere il numero della camera ci misi alcune ore, era totalmente invulnerabile a ogni mia lusinga. Poi è una cosa banalissima, probabilmente c'era stata la fila negli anni di persone che chiedevano qual era la famosa stanza al terzo piano dell'Hotel Roma, che mi pare non si chiami più così adesso, in cui si era suicidato Pavese. Eppure mi ricordo che trovai davanti un muro. Ecco, è un elemento che lei trova importante nel portiere d'albergo, questa sorta di suggello, quasi fosse un confessore. E poi in realtà è una persona a cui bisogna confidare molte cose, anche personali, anche sulle proprie esigenze fisiche. Molte volte uno chiede delle caratteristiche personali, un certo cuscino, un certo letto, perché magari ha delle difficoltà. Ma bisogna subito fare una distinzione. Molto spesso si confonde il portiere d'albergo con il banco del ricevimento, perché negli ultimi anni, per questioni di budget piuttosto che cose di affini, è stata un... C'è soltanto una persona, sì, diciamo la maggior parte degli alberghi medi in cui si va, a meno che non si vada in grandi catene, una persona entra, è uno l'interlocutore, non c'è quello che ti fa girare la porta, poi quello che ti prende la valigia, certo, quello che ti prende i documenti. Certo, ma quello che volevo sottolineare è che la figura del portiere d'albergo, che poi si identifica con le clé d'or, che questa, quelli che hanno praticamente le chiavine d'oro sulla redingote. Sì, che oggi si limitano a tenere l'elenco dei taxi che vengono chiamati, non è che fanno grandi cose. Queste persone qui, diciamo che sono, quando lei dice sono dei confessori, in un certo senso è vero, perché molto spesso i grandi clienti, proprio per il tipo di vita che conducono, sono abbastanza solitari e comunque tendono a fidarsi poco anche dell'entourage che li circonda. E un'altra figura che lei ha citato all'inizio della trasmissione, quella del portiere di notte, che non è quella che ho trattato io, però è altresì importante, perché molto spesso di notte i clienti si sbottonano, tra virgolette, e hanno voglia di parlare. Molte delle persone che ho intervistato mi raccontavano di colloqui praticamente come aver avuto un colloquio con il Papa. Tra l'altro qualcuno ce l'ha anche avuto con un papa, perché questi clienti vedevano in queste persone, come diceva lei, il muro dietro il quale nascondersi, dietro il quale poter finalmente rilassarsi. Quindi uno dei suoi intervistati addirittura ha avuto a che fare con un papa? Sì, ha avuto una, diciamo due volte, ha avuto un colloquio col papa e... No, perché i papi anche... in Italia, perlomeno che vadano in albergo, è una cosa molto singolare. No, diciamo che era prima che diventasse papa, era credo segretario di Stato, non vorrei dire stupidaggini, era Ratzinger all'epoca, quando c'era Giovanni Paolo II. L'attuale papa, esatto. Avrà viaggiato, certo, naturalmente. Sì, anzi, gli ha fatto fare un giro dei giardini di Villa d'Este a Cernobbio, perché era molto interessato di botanica, e quindi gli ha fatto fare un giro, e sono spariti praticamente per 20 minuti e nessuno sapeva dove fossero finiti. Chissà. E poi invece... Di cosa? No, altri personaggi importanti che le sia capitato, perché penso che come i tassisti, quando uno sta nel taxi, ci tengono a farsi belli del personaggio illustre che hanno portato. Immagino che il portiere d'albergo, una volta capito che lei è in cerca di selvaggina per scrivere un libro, le racconteranno primo gallone nella loro divisa il personaggio importante di cui loro hanno salvaguardato magari la privacy. Un rabdamante, se non sbaglio il termine, cioè coloro che cercano le acque nei pozzi, non so se è presente. Quindi è molto complicato, ho capito da subito che non potevo fare un'estorsione, diciamo giornalistica, ho dovuto essere onesto, appunto per tornare al discorso dell'inizio, per cui è necessario, loro ti squadrano e sanno già chi sei e cosa vuoi. non c'era tanto la volontà di raccontare, onestamente. È stato un lavoro di grande pazienza, e comunque poi i personaggi sono passati. Anche un'altra difficoltà è che comunque sono passati magari 50 anni e alcune cose scompaiono nella memoria. Sapete quante mi hanno richiamato dicendo: avrei potuto raccontarle questo, avrei potuto raccontarle quello. C'è una persona, ad esempio, con cui ho parlato ieri poc'anzi, che credo che magari potrebbe intervenire in trasmissione, che si chiama Alessandro Heinrich e che chiude il mio libro nella parte dei racconti, che mi raccontava proprio ieri di quando è andato vestito in redingote tutto di punto al Piazzale Roma a Venezia a prendere Bono degli U2. Quindi immaginate la scena, insomma, una persona vestita tra virgolette come un pinguino tutto perfetto che va a prendere la megastar, e seminando il panico, tra l'altro. Un Angelo Cipollina, che cito anche nel libro, che ha avuto il piacere di cenare con George Clooney, il quale lo ha invitato perché era stato molto cortese con lui, oppure un Giorgio Chiesa che al telefono con Brad Pitt e George Clooney, uno da una parte, l'altro dall'altra, due telefoni mentre guida, con la moglie che gli sorregge il secondo, per convincere Brad Pitt ad andare a pranzare a Portofino evitando i paparazzi. Queste però sono magari le parti un pochino più di gossip. Ci sono poi personaggi meno famosi, magari miliardari, che però sono low profile, che hanno comunque creato delle scenette interessanti negli alberghi. Gliene cito una che mi raccontava sempre Chiesa, di una signora distintissima che, un po' imbarazzata ma divertita, gli chiede se può procurargli un suonatore di violino, perché il giorno dopo sarebbe stato l'anniversario del matrimonio col marito e voleva fare l'amore mentre un violinista suonava. E guardava pure. Eh sì, guardava, catechizzato chiaramente da Chiesa, che gli aveva detto, prendendolo da parte: tu suoni e basta, cioè per evitare qualche problema. Sì, sì, però si aprono un'infinità. E è riuscito a procurare, diciamo, lo spettacolino, sì? Sì, sì, assolutamente, come dice il titolo del libro, Nessun Problema, non è un titolo a caso, nel senso che nei limiti della legalità generalmente sono in grado di soddisfare... Magari con un paravento uno potrà trovare poteva mettersi a suonare dal bagno, quindi non vedeva e lasciava... No, ha suonato proprio seduto nella stanza. Ah, seduto nella stanza? Beh, erano dei raffinati estremi. Quindi una delle caratteristiche è non scomporsi mai, nemmeno di fronte alle richieste apparentemente più balzane. No, e quando non si può o non si vuole, perché non è caso soddisfare una risposta, bisogna farlo in maniera molto delicata, perché molti clienti sono suscettibili. Lei citava all'inizio la questione della coperta, che è un po' un tasto dolente. Nei grandi alberghi, io sinceramente non voglio credere che non sia mai accaduto. Ma accade dai grandi ai piccolissimi, esatto. Diciamo, l'optional, cioè, si cerca di evitare che sia una cosa alla luce del sole, anche perché molto spesso ci sono delle regole piuttosto ferree e si può incorrere anche in qualche problema. Diciamo che in hotel di grandissimo spessore ci vuol poco a procurarsela e da soli e andare in stanza. Sì, di solito stazionano già nelle lussosissime hall o nei bar o nei locali, diciamo, all'entrata. Ci fermiamo un istante con Nicolò Di Rienzo, ricordo, autore Nessun Problema, il libro che racconta i segreti dei portieri dei grandi alberghi. Ricordo il numero 800240024. Avrete anche voi avuto questo impatto con il portiere d'albergo? Magari essere stati frenati dalla reticenza o dal timore che vi incuteva questa divisa, ma raccontate serenamente il vostro problema. Vedo che già qualcuno sta scrivendo, ma nonostante che noi cerchiamo in tutte le maniere di tenere alto il livello a trasmissione, vedo che il grande, annoso, indicibile problema è proprio quello della ricerca della compagnia. Pensavo che fosse qualcosa che apparteneva ad altri tempi, eventualmente è ancora attuale. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Bisogna domandarsi: che posso fare per stupire e rendere il mio servizio al di sopra delle aspettative del cliente che arriva? Devi mettere in campo le qualità di uno psicologo, ascoltare più che parlare, anticipare. Se sei un bravo portiere, trovano in te un punto di riferimento. Chiunque entri al Grand Hotel ha delle aspettative. Il compito del concierge e dei suoi collaboratori è ribaltare le percezioni finali rispetto a quelle iniziali. I vecchi portieri rimanevano dietro al banco su una pedana che soverchiava l'interlocutore, perché il cliente è potente e stare alla pari metteva il portiere in una condizione psicologica di inferiorità. Io ruppi questa consuetudine e uscii dal banco. 800240024, stiamo parlando dei portieri d'albergo, ispirandoci al libro appena uscito, scritto da Nicolò De Rienzo, Nessun problema, i segreti dei portieri dei grandi alberghi, edizione ADD. Nel suo libro De Rienzo ha intervistato, estrapolato, estirpato da portieri di grandi alberghi italiani quelli che sono i segreti della loro professione. In questo brano, tratto proprio dal libro, capiamo quanto anche la geografia, la psicogeografia dell'entrata in un albergo sia importante, le posizioni del portiere d'albergo. Sta sulla pedana, quindi sovrastando di statura il cliente, ne compensa la differenza comunque di collocazione sociale. Spesso sono molto alti, molto grandi, sono imponenti. Grandi alberghi hanno portieri imponenti, li vestono con livree che mettono paura e che spaventano. Gianni, alla provincia di Vicenza, è stato portiere di un albergo di lusso. Buongiorno Gianni. Buongiorno a lei, buongiorno. Per quanti anni ha fatto il portiere d'albergo? Io ho lavorato in albergo, in un bellissimo albergo, per 42 anni. Sempre nello stesso albergo? Sempre nello stesso albergo. Quindi era come fosse casa sua? Esattamente, era come casa mia. E ancora oggi la considero casa mia, nonostante sia in pensione. Ecco. Certo, è un po' triste tornarsene proprio a casa propria, per quanto possa essere accogliente e bella una casa, non sarà mai come avere a disposizione un grande albergo, che è qualcosa di impensabile per la mente di un uomo comune. Come fa a riadattarsi a una casa normale quando è stato padrone di un albergo? Padrone nel senso che il portiere in realtà psicologicamente ha le chiavi di tutto l'albergo, proprio perché le porta sul bavero della sua giacca. Esattamente, il portiere in un albergo di lusso ai tempi belli, ai tempi d'oro, non aveva solo le chiavi d'albergo, aveva le chiavi della città. In che senso? Me lo spieghi meglio. In questo senso, quando un cliente aveva bisogno di qualcosa, porte chiuse per un albergo non dovevano essercene da nessuna parte, perché il cliente di lusso non accettava dimieghi o rifiuti. Quello che ci ha detto poco fa Nicolò De Rienzo, che in realtà dire no è quasi impossibile, e quando si dice no bisogna trovare delle maniere molto articolate per dire di no. Esattamente. E poi, come diceva adesso poco fa, il portiere è sopra la pedana, è sopra il cliente, e questo è tutto vero. E poi bisogna sapere ascoltare il cliente, perché il cliente bisogna lasciarlo parlare, lasciarlo sfogare e poi portarlo dove vuoi tu. E qual era la richiesta più singolare che ha avuto in 42 anni, o le più strane? A parte il violinista in camera, come ha detto prima Di Rienzo. Beh, di tutto, delle cose più impensabili al gondoliere che deve salire in camera vestito con i remi per suonare una serenata. Cioè vogliono tutte le camere affollate, questo mi sembra aver capito. I ricchi vogliono sempre personaggi di contorno, trasformano la camera in un teatrino. Ci vuole il gondoliere con il remo in mano. Esattamente. Vestito da gondoliere. Volevo sfatare quel discorso che facevano prima sulle coperte dei portieri. La coperta viva, a lei non l'hanno mai chiesta, figuriamoci, in 42 anni. L'hanno chiesto parecchi, ma devo spezzare una lancia a nostro favore, che a Venezia quelle cose non esistevano. Ah, non, a Venezia non ci sono coperte? Sembra un po' singolare. Però le coperte ognuno doveva procurarsene. Ah, la coperta bisogna portarsela a casa, come il sacco a pelo, se no in albergo non ci sono. Va bene, è interessante questa cosa. Nicolò De Rienzo, ha sentito la viva testimonianza di una delle tante persone che le sarà capitato di incontrare. Corrisponde alla sua esperienza, conferma perfettamente tutto quello che ha già detto. Ma direi di sì, proprio vero che sembra strano, ma le immagini... Prima, è una cosa interessante che ha detto lei... E anche la posizione che assume il portiere, e quando esistevano i banchi separati, ovviamente le chiavi erano tutte nel banco del portiere. Questo perché? Per creare una fidelizzazione col cliente. Il cliente entrava, usciva, doveva comunque sempre passare da lì. Adesso addirittura in alcuni grandi hotel e mantenuta la chiave normale, non quella elettronica, per mantenere questo tipo di rapporto. Si deve avere sempre poi un portachiavi pesantissimo, una palla d'acciaio pesante, sì. Delle cose di ottone, ma normalmente oggi i grandi alberghi molti hanno il tesserino elettronico. Sentiamo Beatrice. Beatrice, buongiorno. Eccomi qua. Allora, io sono stata richiamata perché ho mandato un sms che evidentemente è sembrato curioso. Sono appena rientrata ieri in realtà da una riunione, da 3 giorni di riunione in un albergo del Milanese a Sesto San Giovanni, un albergo dove non ero mai stata, un bel 4 stelle, che mi ha colpito molto perché io sono un'appassionata di design di interni, avevo un arredamento che così soddisfaceva veramente molto i miei gusti. E soprattutto in camera ho visto che c'erano queste lampade, queste applique da parete, molto particolari in acciaio satinato, molto molto belle. Non è che ne ha smontata una, se l'è portata? No, assolutamente, però ho provato a salire su una sedia e cercare la casa di produzione, non mi è riuscito perché evidentemente stava nella parte adesa alla parete. Ho fatto anche io personalmente una ricerca in internet e poi, proprio perché sono già attualmente in ristrutturazione della mia abitazione e sto cercando delle lampade, ho chiesto alla reception se riuscivano a recuperarmi marca, modello, eccetera. I ragazzi sono stati veramente gentilissimi, nel giro di 24 ore mi hanno trovato tutto e quindi ho contattato già la casa di produzione, domani me la vado a comprare. Beh, vedi, questo è stato un gesto che dimostra quello che stiamo dicendo noi, che non si può mai dire no a nessuna richiesta, anche la lampada che ha colpito il cliente, come fare a averla uguale? E il problema di solito è che i clienti se le staccano, se le portano via le cose, no, dagli accappatoi ai saponi, mettono infatti i grandi alberghi gadget di pochissimo valore ma di grande impatto emotivo, così uno dice riempie la valigia con le ciabattine di stoffa, con i profumini, con i balsami, con gli oli profumati, e lascia perdere gli accappatoi, i cuscini, le coperte. Sentiamo Luigi. Luigi. Sì, buongiorno signor Nicoletti. Lei portiere? Sì, sono stato 10 anni qua nella bassa modenese. Ah, bene. Noi di quei problemi lì non ne avevamo. Ma adesso tutte verginelle, tutti no, guardiani no, no, no, dell'educandato. No, perché noi dovevamo basarsi sulla clientela, avevamo una clientela fissa, tutti i dirigenti e tutte quelle cose lì che dice lei, come quello di Venezia, non si praticavano. E io non ho mai preso 10 lire di mancia. I favori che facevo la notte del signore che erano incinte, che erano ammalate, questo e quell'altro, non ho mai preso niente. Beh, stava in un pio ospizio, allora non stava in un albergo. No, un albergo a 3 stelle, 4 stelle, e quindi non... No, io avevo proprio quel compito lì di essere leale, ecco. Sì, ma guardi, adesso io, già mi stanno scrivendo in internet su Facebook, ma tu c'hai purito. Nessun purito, dico, stiamo parlando di un argomento. Gran parte dei viaggiatori d'albergo sono uomini soli, gran parte degli uomini soli cercano compagnia, ne sono piene le pagine dei giornali oggi di richieste di compagnia insistenti. Quindi, ma noi sapevamo tutte quelle cose lì, noi sapevamo, però quel cliente lì non era per noi e basta. Se uno dice c'è la coperta viva, le dice qua no. No, se... noi non... Non pratichiamo. No, noi non pratichiamo. Davamo solo alle camere le persone che dovevano lavorare, che stavano lì. E alla mattina alle 6 tutti quei dirigenti lì si alzavano. Non è che stassero a letto fino alle 9. Tutti i dirigenti e tutti i padroni, diciamolo così, loro alle 6 si alzavano tutti. Beh, è interessante, è un'idea etica del potere d'albergo. Sì, esatto. Nicolò Di Rezzo, cosa dici questo albergo che in realtà sembra un istituto di correzione contro le storture della società? Ma io direi che la soluzione del problema sta nel considerare due cose. La prima è che è vero che è pieno di uomini, ma anche donne magari in cerca di compagnia durante i loro viaggi. E se non me lo dice lei che è l'esperto? No, è probabilmente anche vero che diciamo donne a pagamento entrano e escono dagli alberghi. Bisogna fare la distinzione, non sono procurate evidentemente dal portiere. Come dicevano prima, se li possono portare in camera, se io mi presento con una signora con una carta d'identità e mi registro, è finita lì. Vorrei vedere. Quindi, Non siamo negli anni 50 in cui chiedevano il certificato di matrimonio. Grazie a Dio uno è libero di portarsi chi si vuole in camera d'albergo, questo sì, è chiaro. Mi divertiva il rigore di questo signore che diceva: si alzano tutti la mattina alle 6 e andano tutti a lavorare, nessuno andava in albergo per questioni non legate comunque all'etica e al rigore quotidiano. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. È il grande cliente a fare il grande portiere. La ricerca spasmodica della soddisfazione dell'ospite, le cui richieste qualche volta si spingono verso l'impossibile, ha permesso la creazione di un'aneddotica che esalta l'iconografia del portiere come dispensatore di miracoli. Miracoli ordinari, come trovare il biglietto per la prima serata della Scala a Milano o per la finale dei mondiali di calcio all'ultimo minuto. E miracoli meno ordinari, come esaudire il desiderio di un magnate russo che, dopo lo spettacolo all'Arena di Verona, vuole andare a Venezia e fare un giro in gondola. Peccato che le gondole smettano di girare alle 7 di sera. Su cui vuole trovare una bottiglia di Brunello di Montalcino e, per chiudere, consumare un early breakfast alle 5 del mattino al Danieli. Interessanti questi desideri fusion dei grandi frequentatori degli alberghi, la gondola Venezia col Brunello di Montalcino dentro. Interessante perché poi c'è questo ricorrere del luogo comune, il grande viaggiatore internazionale quando arriva in Italia vuol sempre qualcosa di attizzante legato a Venezia e gondolieri. Quest'ultimo brano è tratto dal libro di Niccolò De Rienzo, Nessun problema, i segreti dei portieri di grandi alberghi, ADD Editore. Sentiamo Massimo. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Chiedevo che mestiere facevano i portieri che hanno chiamato precedentemente, perché io, lavorando a Via Veneto, a Roma, in un albergo a 4 stelle, in pochi mesi ho imparato il meccanismo e sono riuscito a soddisfare... Diciamola com'è la verità, sennò sembra che qua... Esattamente. È un educandato continuo la catena della grande accoglienza italiana. Sì, nel senso il portiere d'albergo fornisce tutti i servizi e su tutti i servizi poi ha un, come dire, un vantaggio anche proprio monetario. Chiaro. Che dalle coperte al taxi, al ristorante, ai biglietti dello stadio. E questa è una cosa che si impara in un paio di settimane, mi chiedo dove abbiano lavorato, insomma. Senta, qual è la percentuale sulla coperta? Beh, dipende, là bisogna vedere quanto si è d'accordo con la coperta, ecco, quanto sia giovane, vecchia. Ecco, ma come funziona l'accordo? Cioè, lei appena arriva, al primo giorno di lavoro, le dicono subito: guarda, c'è questo pacco di coperte, prende gli accordi, quando le chiedono sono queste. Beh, dipende l'albergo come funziona, se ci si mette d'accordo fra tutti i portieri oppure se si lavora singolarmente. Guardi, Via Veneto fu colto 3 anni fa un noto parlamentare dalla spiccata moralità affacciato alla finestra con varie coperte lì che contento urlava. Quindi in qualche maniera quelle sono entrate dentro, quindi qualcuno l'ha fatta entrare. No, ma il discorso è che si fanno entrare nel momento in cui si entrano, c'è anche la garanzia, comunque si fa lasciare il documento e poi sono le stesse, quindi in qualche modo non succedono quelle cose spiacevoli come un furto, come una ruberia, e quindi in qualche modo si tiene anche quella sotto controllo. Cioè c'è un controllo sulla coperta. Beh, devo dire che la sera basta fare un girettino per Via Veneto, nei caffè vicino agli alberghi, di coperte se ne vedono parecchie, quindi non è un problema. Famosissima quella zona, insomma, sì. Per i locali rinomata, di lunga tradizione, ecco. Quindi lei, diciamo, riporta a una condizione di normalità quello che è l'argomento scabroso che non volevamo toccare, ma è diventato il filo rosso della nostra trasmissione. È inutile che il portiere della bassa modenese dica soltanto brave persone che lavorano e si alzano alle 6 di mattina. Un albergo con questa premessa sarebbe usato soltanto, non so, per meta di pellegrinaggi sulla strada di Lourdes, però non avrebbe occasione di lavorare come dice lei. Esattamente. Va bene, io la ringrazio. Umberto. Buongiorno, dottor Buttafuoco, salve. Sì, magari Buttafuoco è uno stimato collega, scrive su Panorama, lo invidio molto, ma non sono io. Buongiorno, dottore, mi scusi l'apsus. Mi lusinga, figuriamoci. La mia esperienza invece volevo segnalare... Poi è un grande esperto in coperta, ha scritto libri fantastici sulle femmine, quindi ne sa molto più di me. E quindi, in ordine invece, volevo segnalare un'esperienza in ordine ai cosiddetti, quelli io chiamo gli alberghi di transito, quelli che solitamente uno prende per dormire lì giusto quella notte, poi il mattino dopo deve subito ripartire. Sì. Ebbene, quelli sembrano a volte considerati gli alberghi minori, invece le assicuro che sono ottimi, efficienti, arredati con gusto, personale molto cortese. Hanno poi ad esempio orari assurdi, tipo vi servono la colazione alle 4:30 già del mattino, alle 5 oppure la cena. Ma lei ne gestisce una catena? No, assolutamente, no, le apprezzavo sotto ogni punto di vista perché li utilizzo spesso per lavoro e anche lì le coperte naturalmente non mancano a qualsiasi ora del giorno e della notte. Quindi questo è un motivo in più per apprezzarli dal suo punto di vista? Assolutamente, insomma, perché poi li paghi la prestazione direttamente alla coperta, non c'è nessun scambio col portiere. Ecco, beh, non c'è una fatturazione, quello è chiaro, perché è imbarazzante, come i filmetti. Che ma, c'è scritto, nemmeno... non viene specificato il titolo del film, c'è solo scritto ha visto un film con la televisione via cavo. Vabbè, grazie. Questo è molto interessante. Paolo. Buongiorno, sono Nicoletti. Niente, io lavoro in un albergo da 20 anni. Io volevo segnalare una cosa: l'approccio all'albergo cambia molto a seconda del cliente. Io lavoro in un albergo a Brescia, è una tipica città d'affari. Da lunedì al venerdì il cliente ha un approccio verso l'albergo molto freddo, molto distaccato, e anche ormai la richiesta di questa cosiddetta coperta non c'è più. Internet è talmente interessante, è talmente veloce, che può dare tutte le richieste che vuole e senza grandi imbarazzi nell'affrontare il proprio referente al di là del bar. Uno si fa un corredo in 5 minuti con un click, non occorre più chiedere la coperta. Esatto. Però c'è una cosa da dire, lo stesso cliente che ha un rapporto molto freddo e molto distaccato, di solito un cliente singolo, durante il weekend ha un approccio nei confronti dello stesso albergo molto diverso, magari viene raggiunto dalla famiglia e vive l'albergo chiedendo informazioni completamente diverse e lo vive molto di più. Quindi un cliente double face, anche gestire il cliente double face richiederà un impegno. La ringrazio Paolo. Niccolò De Rienzo, ho voluto darle una sventagliata di altre situazioni che non sono le tipologie contemplate dal suo libro, però dà degli elementi di riflessione ulteriori. Ma sicuramente sì, perché proprio non essendo le situazioni contemplate dal mio libro, in effetti poi emergono quelli che sono gli argomenti tipici. Io vorrei soltanto spezzare una lancia a favore di questo, insomma, quello voglio dire è che nel mio libro si parla poi di un'elite, l'elite dei portieri dei grandi hotel, degli hotel di lusso, quindi è ovvio che anche cambiando anche il tipo di clientela cambia il tipo di richiesta. Le faccio un esempio molto, molto semplice. I grandi personaggi molto spesso non vanno in cerca di grande pubblicità, quindi evitano loro stessi di mettersi in determinate condizioni. Qualora questa cosa non accada, c'è un aneddoto nel libro che si riferisce a tanti anni fa, penso agli anni 60, dove un grandissimo personaggio dell'epoca aveva richiesto una donna e all'epoca questo Pino Buso, che poi è stato anche maggiordomo della Conciergerie perché è di Agnelli, che è stato voluto personalmente da Agnelli e che è una persona estremamente distinta, lo mandò in camera dicendo adesso vediamo, e poi il giorno dopo tornò giù questo personaggio infuriato dicendo ma neanche una donna sapete procurarmi. Lui lo prese da parte, molto cortesemente dice guardi che io l'ho fatto per lei. Lei era in una certa condizione, evidentemente un po' il ticcio, avrebbe potuto mettersi nei guai, e questo qui se ne andò lasciando il biglietto di che mi chiami quando vuole, la ringrazio, lei è un grande uomo. Questo per dire che dipende, come lei, come il passo citato, il grande portiere lo fa il grande cliente, è vero. Insomma, io il signore che lavora in via Veneto, innanzitutto lavoro in un 4 stelle, quindi non è sicuramente paragonabile a un 5 stelle lusso e la clientela tantomeno. E poi, insomma, voglio dire, e bisogna essere onesti, quando uno va in un 5 stelle lusso vede una differenza abissale. Assolutamente, una differenza abissale. Poi diciamo che gli hotel di Via Veneto, come ho già accennato con grande pudicizia, sono stati fortemente inquinati dai passaggi di orde barbariche dovute anche al rapporto molto stretto c'è nella capitale tra politica e necessità di passare allegramente le notti. Ci sentiamo la prossima settimana. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.